Di Ella Maillard, La via crudele, due donne e una Ford, dalla Svizzera all'Afghanistan. Editi edizione, traduzione di Silvia Vacca. 1. L'idea. Se domani, quando vi accompagnerò alla stazione, la temperatura non si alzerà, vi sono serie possibilità che la macchina non parta, ormai non è più in grado di reggere simili freddi. Cristina fece questa constatazione di sfuggita e io la udii appena. Il mio pensiero era ancora tutto preso da Praga, di cui mi aveva parlato poco prima, descrivendomi l'anima di questa città, la vita dei suoi amici ciechi, la loro impotenza e disperazione dinanzi all'incombere di un nemico ogni giorno più vicino, più implacabile. Guardavamo tutte e due attraverso i vetri della casa di campagna che Cristina possedeva in Engadina. L'inverno regnava incontrastato. Dall'altro versante della valle le nuvole coprivano le discese del Fechstal, lungo le quali al mattino avevamo sciato tra i larici di un luminoso bruno rossiccio. Un cielo basso e cupo incombeva sulla vallata livida, senza ombre, come morta. Da quella casa, situata sulla sponda di un lago ghiacciato, sommerso da pesanti coltri di neve, la contrada appariva piatta ed estesa, benché fossimo sulle Alpi. Non vi era che questa austera solitudine a separarci dall'orizzonte dove il colle della Maloja permetteva l'accesso all'Italia. Cristina aveva probabilmente aggiunto: «La mia povera macchina è quasi all'ultimo e mio padre mi ha promesso una Ford». Quest'ultima fu l'unica parola che sentii e fu anche, sembra, la responsabile di tutto. Un solo nome. E intorno ad esso si organizzarono idee sparse, si cristallizzarono in disegno preciso vaghi progetti. Risuonò, quasi come un'eco lontana, una voce del tutto simile alla mia: una Ford! È proprio la macchina adatta a percorrere la nuova strada della Zarajatta in Afghanistan. Anche in Iran è indispensabile poter disporre di una macchina personale. 2 anni fa ho viaggiato dall'India in Turchia a bordo di camion e di pullman. Ah, non dimenticherò così presto la polvere, le soste forzate, il fervore dei pellegrini, le notti sul ciglio della strada o in caravanserragli gremiti di gente, i controlli della polizia a ogni villaggio che attraversavamo e forse l'inconveniente più irritante è la necessità di rimanere nelle vicinanze del camion invece di vagabondare a proprio piacimento. Fra le nubi sovrastanti la Maloja, un chiarore diffuso sembrava quasi indicare quella strada che, dopo una discesa di 1500 metri nella calda Lombardia, si sarebbe insinuata tra i Balcani, conducendoci sino al Bosforo, dove per noi si sarebbe aperta la porta sulle immensità asiatiche. Il mio pensiero era già in Iran. A est del Caspio visiteremo l'indimenticabile torre di Gumbat i Kabus, ci accamperemo tra i turcomanni iranici, forse seguono ancora usanze ormai perdute presso i loro cugini sovieticizzati, vedremo la cupola d'oro della moschea dell'Imam Reza, preziosa rotondità liscia e compatta innalzata verso il cielo. Giungeremo al cospetto dei due giganteschi Buddha scolpiti nell'incontaminata valle del Bamiyan. E sempre in quella regione ci incanteremo all'incredibile blu dei laghi del Bandi Iamir. Più lontano ancora, ai piedi del versante nord dell'Hindu Kush, risalendo la valle dell'Amu Darya, l'antico Oxus, ci dileguiremo tra le montagne prima che un qualche divieto inviato da Kabul ci fermi. Gli uomini che vorrebbero studiare vivono là, in una contrada dove mi sento a mio agio. Quei montanari, non ancora contaminati dalla schiavitù dei bisogni artificiali, sono esseri liberi, non forzati da nulla ad aumentare la produzione giornaliera. Se il Kafiristan ci sarà vietato, potremo attraversare l'India, raggiungere la nuova strada della Birmania e vivere laggiù con i lolo del Tibet orientale. Quando avrò raccolto dati nuovi su quelle tribù, sarò finalmente ammessa alla società degli etnografi. Allora sarà tutto perfetto, farò parte di un'organizzazione e vagabondare sarà il mio mestiere. Non sarò più tentata per vivere di scrivere libri. Le parole tessevano la trama di un progetto che si delineava con tanta forza, con tanta precisione da imporsi per proprio conto. Cristina poté alfine interrompermi. Quando vivevo a Teheran avevo costantemente il desiderio di andare più a Oriente, dove i costumi tradizionali non sono ancora stati aboliti. Il suono della sua voce mi riportò al presente. La osservai freddamente, benché non si fosse ancora ripresa da una cura che da parecchi mesi la metteva a dura prova. Il suo sguardo era chiaro e deciso. Cercai allora di ostacolare la nuova piega del nostro discorso, adducendo i primi argomenti che mi venivano alla mente. Ah, mia cara, perdo il senso della realtà parlando così. A meno che il vostro peso non aumenti di 10 kg, non potreste mai affrontare fatiche simili. E poi, chi mai ci finanzierebbe? D'altronde, presto o tardi scoppierà la guerra, e se ciò non accadesse, sarò quasi certamente impegnata in un giro di conferenze negli Stati Uniti. Evitavo la questione principale, anche supponendo che Cristina si rimettesse bene, per quanto tempo avremmo potuto reciprocamente sopportarci? Benché avesse probabilmente indovinato il mio pensiero, ella tacque. La sua mano magra e lunga, quasi opalescente sotto una pelle di carta velina, reggeva una sigaretta americana. Seduta su uno sgabello, il torace incassato, le braccia intorno alle ginocchia, il suo corpo da adolescente si inchinava verso la grande stufa di maiolica che occupava un angolo della stanza. Senza la tensione della sua presenza, la vecchia casa silenziosa sarebbe stata un quieto rifugio dalle raffiche di vento che soffiava fuori, in quella casetta di montagna dalle pareti di legno grezzo, su cui gli ovali delle venature ricordavano la seta marezzata. I muri e la tavola erano lisci, lindi e piacevoli sotto il palmo della mano, impaziente di accarezzarli. Immobile, Cristina non dava tuttavia l'idea di essere in pace, non lo era mai. Il suo volto, calmo come sempre, senza colore, era un enigma che tentavo di decifrare. Privo di ogni affettazione, era semplice, nel senso di vero, senza pose, non preoccupato della propria apparenza. Sotto la massa dei capelli tagliati corti, la testa sembrava troppo grande, troppo occupata da idee per una nuca così fragile. La fronte non era alta, ma colpiva per la sensazione di imponenza, di profondità, di determinazione ostinata che se ne traeva. Non ignoravo che la sua intelligenza era in grado di formulare i più nobili pensieri non appena venisse superata una sorta di ossessione che non sapevo ancora definire. Sotto spesse sopracciglia più scure dei capelli, gli occhi ben distanziati si tingevano di un grigio che sfumava nel blu intenso, e il loro sguardo lasciava indovinare un'anima innamorata della bellezza, ma che, spesso ferita dalle umane dissonanze, tendeva a ripiegarsi su se stessa. L'entusiasmo poteva farli brillare e anche l'affetto o l'amore rispondevano pronti al sorriso altrui, ma non li ho mai visti ridere. Il suo naso sorprendeva per una certa robustezza, indizio che la costituzione di Cristina non era così gracile come a tutta prima poteva sembrare. Melanconico era il disegno della bocca, pallida e irregolare, le cui labbra aspiravano il fumo con voracità silenziosa. I suoi denti si scurivano, mi aveva confessato, ogni qualvolta aveva un calo di vitalità. Il mento piccolo e singolarmente infantile le dava un'aria da bambina stupita e inquieta, sul punto di chiedere protezione. Le mani assomigliavano a quelle di un artigiano che sa cesellare una linea pura. L'ho vista rimettere per 7 volte un foglio bianco nella macchina per scrivere prima di arrivare a quella frase perfetta che sola poteva soddisfarla. Scrivere era l'unico rito della sua vita, rito a cui subordinava tutto. La sua apparente impassibilità era la naturale conseguenza dell'impegno a ottenere una forma impeccabile. Non avrebbe potuto esporre in piena luce un'agitazione pari alla mia. In virtù forse della sua esteriore serenità, un nostro amico era solito chiamarla l'angelo caduto. Dal suo corpo sottile, dal suo volto pensoso, illuminato dal pallore della fronte, emanava un fascino che infallibilmente agiva su quanti si sentono attratti dalla tragica grandezza dell'androgino. No, Kini, devo partire. Non vi è più speranza per me se resto in questo paese dove non trovo più aiuto, dove ho commesso troppi sbagli, dove il passato mi opprime in maniera insostenibile. Avevo pensato di partire per la Lapponia, ma preferirei di gran lunga venire con voi in Afghanistan. Vedete, non ho ancora imparato a vivere sola. Per quanto riguarda l'esplorazione vera e propria, non è indispensabile che vi accompagni per le montagne. Conoscete bene gli Hakin e io potrei aiutarli nei loro scavi laggiù. Sapete, ho già lavorato con archeologi in Siria e in Iran. Dopo una breve pausa riprese: La mia salute vi preoccupa, ammetto di essere debilitata, ma voi non conoscete la mia costituzione. Interrogate i dottori, vi confermeranno che non sono mai riusciti a spiegarsi le mie convalescenze. Vi prometto di sciare ogni giorno invece di fumare troppo, così avrò più appetito e nutrendomi meglio acquisterò peso. In quanto al denaro, i nostri editori ci aiuteranno. Ho appena terminato il mio ultimo libro e otterrò certamente un anticipo sulla storia che si potrebbe trarre dal nostro viaggio in Afghanistan. E inoltre il Geographical Magazine ci appoggerà, ne sono sicura. Con voce più bassa, come soffocata, aggiunse: Ho 30 anni. Si tratta dell'ultima possibilità di decidere della mia vita, dell'ultimo tentativo di riappropriarmene. Questo viaggio non sarà una folle evasione, come se avessimo 20 anni, e d'altronde sarebbe impossibile ora, con la tragedia che incombe sull'Europa. Sarà un viaggio di studio che ci aiuterà a raggiungere la nostra meta, diventare finalmente esseri coscienti, capaci di rispondere di se stessi. Mi è ormai insopportabile vivere così, alla cieca. Qual è la causa, il senso di questo caos che falcia uomini e paesi? E poi deve pure esistere qualcosa che io possa fare della mia vita, un'idea, uno scopo per cui morire con gioia o per cui vivere chini. Voi come resistete? Ascoltatemi bene, cerchiamo di essere pratiche. È trascorso già molto tempo da quando avevamo ammesso che prima di voler comprendere ogni altra cosa avremmo dovuto conoscere meglio noi stesse e del pari. Avevamo concluso che il caos intorno a noi è strettamente connesso a quello insito in noi. Ma prima di tutto dovete impegnarvi a recuperare forze per non essere più alla mercé della vostra salute. Siete pronta a dedicare i prossimi mesi affinché la vostra meravigliosa energia offra un corpo nuovo ai vostri nervi ricostituiti? Pronta a non preoccuparvi più di problemi che ancora non potete risolvere? Vi prego, non dite sì per tranquillizzarmi, tocca a voi giudicare quanto siete in debito con voi stessa. Avete, per esempio, più volte asserito che a guerra dichiarata avreste combattuto Hitler con tutte le vostre forze, ma che potreste mai fare se in quel momento foste ridotta a poco più di un'ombra? La mia voce cercava di assumere un tono autorevole, ma conoscevo quale tormento celassero le misurate e calme parole di Cristina, e nel profondo di me stessa, là dove regolare e piana scorre con più intensità la mia vita segreta, mormoravo una silenziosa preghiera: che mi sia possibile venirvi in aiuto, mia impaziente Cristina, voi che siete così stremata dalle limitazioni della condizione umana, così oppressa dalla falsità della vita, dalla parola, dalla parodia d'amore diffusa ovunque, se viaggeremo insieme. Che mi sia concesso di non deludervi, di essere salda e forte, tanto da riuscire a sostenervi. Come ritroverò sulla superficie della terra, là in quei luoghi già percorsi, il cammino da seguire, così, sul piano spirituale, dopo essermi posta da lungo tempo domande simili alle vostre, che mi sia dato aiutarvi con le poche risposte in mio possesso, a vivere finché non troviate ciò che è necessario scoprire da sé. La partenza. Silva Plana, in Engadina, servì da trampolino alla nostra immaginazione per prendere il volo verso il sud-est, spingendosi fino ai più grandiosi versanti dell'Asia. Ma la nostra reale partenza, come un decollo, ebbe luogo dal colle del Sempione. Da lì, zigzagando, virando sull'ala, tuffandoci a vite lungo il fianco della montagna, traversando oscure gole, arrivammo all'estero. Chiazze di neve, logorate dalla carezza del vento tiepido, costellavano i pendii grigio topo dei pascoli circostanti. Nessun movimento, nessun rumore su quella strada ancora incassata fra due muri di fango biancastro e gocciolante. A centinaia di metri sotto di noi, probabilmente un treno, percorreva i 20 chilometri della lunga galleria. Quanto più piacevole era trovarsi lassù, su quel colle, in bilico tra paesi pianeggianti e alte regioni, tra l'Europa meridionale e quella centrale, tra la calda latinità e il grave riserbo germanico, immobili ad ammirare una frontiera naturale che nessuna politica avrebbe mai potuto alterare, sentivamo la necessità di una pausa, di un momento di riflessione prima di dare un ultimo sguardo alla Svizzera. La nostra mente andava a quanto lasciavamo alle nostre spalle nel 1939. Il nostro era anche un addio a Parigi, a Londra, a Berlino, le città mostro, che vibranti di mille incessanti suoni erano il fondale del nostro mondo, un mondo che sapevamo condannato. Fino a che questo non fosse successo, avevamo il dovere di proseguire i nostri sforzi, poiché lì sentivamo meno futili di ogni altra occupazione. Parigi, tra una corsa e l'altra, presso i consolati, le case editrici, la sarta, il museo, la banca, i giornalisti ben informati sulle ultime notizie, le redazioni, gli automobilisti, esperti di deserti, un antropologo, un cineasta di film a colori, il dottore per le varie iniezioni, i librai provvisti di libri sull'Oriente, mi trovai un giorno a percorrere gli Champs-Élysées. Il polline dei castagni in fiore scintillava nell'aria mattutina. Il cielo azzurro intenso era un invito all'allegria. Girai in Avenue Montaigne per recarmi in quella stanza soleggiata che occupavo in casa di amici lungo la Senna. Ero felice. Ma ad un tratto, benché cosciente dello splendore di quel momento, un nodo mi strinse la gola e lacrime inondarono i miei occhi scivolando lungo le guance. Sconvolta, la vista annebbiata, cercai una panchina per riprendermi. Violenta quanto impersonale, tale emozione si mutò lentamente in pensiero. Qualcosa in me soffriva in maniera lacerante per Parigi, come se la sua carne, la sua anima fossero schiacciate, martirizzate, dilaniate, e come se la mia compassione fosse diventata tanto grande da abbracciare tutta questa città che amavo e che presto sarebbe stata torturata. Come reagire davanti a tale sventura se non con il pianto? Ritornai piano a considerazioni più tranquille. Il dramma europeo non si era ancora scatenato e forse non sarebbe stato così terribile. Capii in quel momento che stavo dicendo addio a Parigi ed era, a ragione, un addio intenso perché sentivo che mai più l'avrei rivista quale la conoscevo. Nulla spiegava tale profonda emozione. Soltanto il giorno prima Blaise Cendrat mi aveva invitata a trascorrere l'estate nella foresta delle Ardenne, affermando che la guerra non sarebbe scoppiata. Data la sua assidua frequentazione della redazione di Paris Soir, doveva certamente saperne più di me. Le sue parole mi avevano dunque rassicurata. Affascinante e distratto, il mio amico Robert sosteneva di non essere angosciato per il futuro. Joseph Hakin aveva da poco lasciato il museo Guimet per recarsi in Afghanistan, come se in Europa tutto fosse normale. Avevamo deciso di raggiungerlo a Bagram, dove avrebbe fatto alcuni scavi in luglio. Era d'accordo a prendere Cristina nel suo gruppo. Nondimeno, un mio amico, il professor Rivet, socialista militante, non era più ricevuto in casa della mia ricca ospite. Segno che si prendevano le distanze, che le differenti opinioni iniziavano a ripercuotersi sul quotidiano di ognuno. Il piccolo giornale di sinistra, diretto da Jean, era stato proibito e avevano arrestato alcuni suoi amici. Il fascismo si sta insediando e non sarà per poco, diceva. E al momento del nostro commiato soggiunse: questa volta, credimi, la guerra è imminente. Ma aveva predetto la medesima sventura alla vigilia della marcia di Hitler su Vienna. In quanto a Paul Valéry e a Lucien Fabre ero convinta che qualsiasi cosa fosse successa si sarebbero mantenuti ben saldi. Fabre sembrava capire i dubbi e la fatica della mia ricerca. La spiegazione razionale del mondo non può condurre lontano, diceva. Vorremmo coprirlo con una rete di paralleli e di meridiani, ma essi non arrivano a comprendere tutto e non spiegano nulla. Per parti, studia con più attenzione l'Oriente perché è questo ad attrarti. Forse in India, dove molti sono coloro che credono a una vita spirituale, troverai un'atmosfera favorevole alle rivelazioni. A Londra il clima era assai diverso. Si respirava un'aria più giovanilmente aggressiva di quella della mia ultima visita, come se gli inglesi avessero sostituito il bacon della prima colazione con carne di leone. Tuttavia, mi era difficile dimenticare come avessero perso la testa nel settembre del 1938. Hilary St. George, Saunders e Denison Ross, quando sembrava che il loro paese fosse sul punto di essere bombardato, in preda alla rabbia e alla disperazione, avevano preteso pubblicamente la vita di 60 milioni di tedeschi. Ora ambedue ammettevano che, presi alla sprovvista, erano del tutto disorientati, ma che al momento attuale il paese, al pari di loro stessi, era finalmente pronto a battersi ancora una volta fino alla morte. Steve Kinghall vedeva chiaramente ciò che stava capitando e mi affascinava il suo modo di dimostrare come le guerre moderne siano cataclismi destinati a posticipare accomodamenti durevoli. Senza dubbio, i problemi di molti di noi si semplificano quando dobbiamo batterci per il nostro paese, ma le sofferenze create dalla guerra appaiono inutili ai sopravvissuti, che si chiederanno sempre perché sono in vita. Frère Reeves trovò il tempo di invitarmi a colazione al Savoy, malgrado lavorasse allora al Labour Ministry e al contempo nella casa editrice che pubblica i miei libri. Era diventato più distaccato e saggio. Futili chiacchiere e scherzi appartenevano ormai al passato. Si spinse persino ad affermare che un problema spirituale fosse all'origine della crisi europea. La Royal Geographical Society aveva smesso di essere augustamente imperiale. In un'atmosfera indaffarata venivano imballati libri e documenti preziosi per portarli al sicuro fuori città. Mentre sceglievo le carte di cui avremmo avuto bisogno durante il viaggio, incontrai Eric Shipton e Campbell Secord che partivano l'indomani per il Karakorum. Decidemmo che se gli afghani si fossero opposti ai miei progetti avrei raggiunto Shipton nella sua valle perduta per passare l'inverno tra gli Shimshali, dove avrei studiato i modi di vita femminili mentre egli si sarebbe occupato di quelli maschili. Nel periodo in cui era fissato il nostro incontro, la loro spedizione tornò indietro a causa della guerra, ma uno dei compagni di Shipton, travestendosi da donna, finse di essere Ella Maillard e il mio, tra virgolette, arrivo, messo in scena a Gilgit, ingannò il political agent per un certo tempo. Durante il mio soggiorno londinese ero ospite di Irene, la quale aveva incontrato Cristina a Teheran nel 1935. A suo parere ero incauta a partire in sua compagnia, non sarei mai arrivata a Kabul e tantomeno in Iran. Dicendole che si sbagliava, cercavo di persuaderla che conoscevo meglio di lei l'angelo caduto. Ero intimamente convinta che sarei riuscita nel mio duplice intento, essere di aiuto alla mia amica e raggiungere Kabul. Ma girando per la città in compagnia di Audrey, alla ricerca di un sacco a pelo impermeabile e indispensabile se avessimo dovuto dormire sulle nevi del Pamir, indovinavo quale allegria sarebbe stata partire con una compagna come lei, gaia e spumeggiante di voglia di vivere. Allora mi fu chiaro quanto fossi ancora incerta sulla nostra impresa. Da allora presi l'aereo per Monaco per incontrare il dottor Herrlich, il cui libro sul Kafiristan, l'odierno Nuristan, era appena uscito. Il governo afghano gli aveva imposto una scorta di 21 soldati perché a nessun tedesco era permesso entrare in una casa indigena. I soldati dovevano altresì impedire che per un qualche incidente il resto del mondo venisse a scoprire che il progresso non aveva ancora toccato le valli più impervie e nascoste di quel territorio. Ogni qualvolta però che un colle si parava dinanzi a loro, i tedeschi, esperti montanari, lo affrontavano di buona lena e distanziavano la scorta guadagnando così una mezz'ora per studiare indisturbati i kafiri del primo villaggio incontrato. Quegli uomini dai capelli castani adoravano ancora il dio Imra e la sua sposa Nurmelli. Uno dei riti di iniziazione consisteva nel sacrificare una capra al dio della guerra Gish, mentre giovani di entrambi i sessi danzavano cantando e tenendosi per le braccia. Le donne partorivano nella dimora di Normelli, dove restavano per 20 giorni. Il sacerdote non poteva entrare in una casa mortuaria prima che fosse stata innalzata l'effigie del defunto. Per i kafiri i galli sono animali sacri ed è compito degli uomini mungere le vacche. Gli indigeni utilizzano sedili e sono i soli asiatici ad averne l'abitudine, fatta eccezione per i lontani cinesi. Compresi che il dottor Herrlich aveva ottenuto il permesso di recarsi nel Kafiristan perché il governo afghano sperava di comprare macchinari tedeschi a prezzi vantaggiosi. Non avendo a disposizione simili risorse, le mie possibilità di essere ufficialmente ammessa in quelle alte vallate erano poche. Tuttavia, come per sfida, acquistai i compassi adatti a misurare il cranio di quei montanari. Ero incuriosita, affascinata dagli oggetti di legno riportati da quella spedizione. Eroi a cavallo che nei cimiteri stanno a guardia di pesanti bare di cedro, statuette scolpite dai volti angolosi sotto elmi appuntiti, ciotole ornate di disegni geometrici simili a quelli polinesiani. Prima di ritornare a Ginevra, mi fermai a Zurigo dove Cristina aveva ottenuto aiuti da parte di un museo. Andai a trovare Carl Gustav Jung, sperando ingenuamente di avere da lui, in poche parole, la chiave della mentalità di quei popoli che abbiamo la pretesa di considerare primitivi. Gli offrii un mio libro. Sfogliandolo mi chiese: perché viaggiate? Per trovare coloro che ancora sanno vivere in pace, risposi. Fu la prima risposta che mi venne alle labbra. Il grande psicologo mi aveva guardato con un certo sospetto. Avevo forse l'aria di essere colpita da una qualche frenesia e di venire da lui in cerca di guarigione. La scienza di cui faceva mostra mi dava le vertigini, sia che analizzasse i recessi di quello che chiamava il cervello del grande vecchio uomo, sia che descrivesse le altezze sovracoscienti che avrebbe in seguito studiato sistematicamente. Gli chiesi se ricerche simili non fossero pericolose. Molti anni dopo il nostro colloquio, incontrando in India maestri spirituali, mi ritornarono alla mente sia la sua risposta, sia lo sguardo dei suoi piccoli occhi indagatori. Sì, è pericoloso. Tuttavia, colui che vuole conoscere deve assumersi il rischio di diventare insensato. Immersa nella luce riflessa del suo lago, Zurigo era in festa. Una moltitudine di gente sfilava in un clima di entusiasmo per l'esposizione nazionale che ancora una volta, al pari della vigilia di un'altra guerra mondiale, ricordava ai confederati ciò che la Svizzera incarnava, rinvigorendone così le forze dalle caratteristiche tanto disparate. Mi ritornò d'un tratto alla mente un'atmosfera simile, vissuta nel 1914, durante la Fête de Juin al Festival di Ginevra. Vidi l'ampio teatro, il cui scenario immenso si apriva sullo sfondo naturale del lago, il coro che cantava la vita del nostro popolo libero, l'emozione degli spettatori al momento della comparsa dei soldati svizzeri, vestiti con i loro antichi costumi, venuti a liberare la patria da Napoleone, mentre si accostavano alla scena imponenti imbarcazioni. Quale significato attribuire al fatto che tali magnifici spettacoli vivificassero lo spirito svizzero alla vigilia di due tragedie mondiali? Perché e per quale misterioso disegno la Svizzera è stata per ben 2 volte risparmiata? La vita ha uno scopo e se ne ha uno, come trovarlo? Il concatenarsi dei pensieri mi riportava a quella medesima domanda che mi ero posta per la prima volta nel 1918 dinanzi a tante giovani vite sprecate. Di ritorno a Ginevra annunciai agli amici la mia partenza per Kabul con la stessa calma con cui avrei detto domani vado a Parigi. Significava che d'ora in poi avrei sentito l'Oriente come una patria e del pari, in modo del tutto normale, presi commiato da mia madre sul pianerottolo di casa davanti all'ascensore, mentre mi sentivo porre la consueta domanda: non hai dimenticato nulla? Dal balcone del mio appartamento al quarto piano, la nostra macchina immobile sull'asfalto scuro tra due facciate bianche di palazzi moderni appariva piccola ma compatta e potente, così stretta all'altezza del radiatore e larga a poppa, come un'imbarcazione che per lunghi mesi ci avrebbe aperto il cammino, trasportandoci sulle onde lunghe dell'Europa e dell'Asia. E finalmente eravamo in viaggio, seguendo un percorso noto di vie ben asfaltate, attraversando il ponte Mont Blanc e poi lungo le banchine bordate di rossi tulipani che danzavano alla brezza azzurra del lago. Era il 6 giugno 1939. Benché il nostro sguardo interiore fosse rivolto verso una meta desiderata con impazienza, ci incamminavamo lentamente. La nostalgia di ritrovare la sconfinata desolazione del deserto persiano non impediva ai nostri occhi di essere sensibili al paese romando, alla cui vista si rinnovava l'emozione di quella contrada così variegata, per quella regione dove tutto è misura e armonia, i fieri profili rocciosi, i radiosi campi di neve appena sfiorati da nuvole erranti, il fieno alto e profumato, punteggiato di margherite, le acque cristalline, il fogliame profondo dei parchi sussurranti, i sobri frontoni delle vecchie case grigie. Quanto incredibile apparirà tutto questo quando saremo fra le aride e monotone pianure dell'Iran, piccole città che si riscaldano come lucertole sotto le scaglie brune delle tegole, locande dove i tavoli sono disposti all'ombra di un muro, dall'intonaco appena increspato, vigneti terrazzati in adorazione del sole che li colora d'oro. Tutto questo versante, anfiteatro arcuato di fronte alle Alpi, che troneggiano al di là della liquida arena delle Mano, sembrava respirare abbondanza, perfezione, calma, come se il cielo germanico non fosse mai stato contaminato dalla follia degli uomini. Nondimeno, al pari di un gatto che sazio e con gli occhi socchiusi sembra perduto nella beatitudine, il paese era vigile. Negli anfratti delle montagne si celano armi terribili, le antenne telegrafiche erano pronte a captare il minimo segnale. Addio, paese nitido e chiaro, grande vallata del Rodano, dove si allineano vibrando lunghe file di pioppi e il rapido saltellio dei torrenti evoca luoghi fatati, Arolla, Chandolin, Zermatt o Saas-Fee. Mi aggiro intorno alla grande cascata, adducendo il pretesto di provare la nuova cinepresa, ma in realtà sento la necessità di interrompere quella sorta di suggestione mormorata per chilometri e chilometri dal canto delle ruote sull'asfalto. Desidero toccare il tuo suolo un'ultima volta.